Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo, come già abbiamo fatto ieri, delle prospettive sull'economia. Perché? Perché è intervenuto il ministro all'economia Padoan, non tanto sulle nuove previsioni. Ieri abbiamo avuto un lungo approfondimento sulle nuove previsioni riviste al ribasso anche dal REF, dopo che già il Centro Studi Confindustria, l'OCSE stimano una crescita debole, debolissima per quest'anno. Ieri il REF ha detto non si andrà oltre lo zero, ma al di là di questo, che sia 0, 0,2, 0,3 ormai abbastanza, devo dire, assodato, anche se il governo comprensibilmente per alcuni versi, per altri meno, non vuole ancora rivedere le stime di crescita, è abbastanza chiaro che tutti gli indicatori che stanno arrivando sono di una crescita molto più bassa delle attese. E la spiegazione di ieri, a mio avviso, era molto interessante sul perché ci sia stata una previsione da parte di tutti gli istituti a fine 2013 che guardavano indici di fiducia tutti in aumento delle imprese e dei consumatori e quindi si aspettavano una ripresa anche dei consumi interni, non capendo che ormai tale è la situazione e tale è la criticità della situazione, che ormai quando uno risponde di essere fiducioso sul futuro non è perché immagina un aumento di stipendio o che suo figlio trovi lavoro, ma semplicemente immagina che la sua situazione non peggiori, cioè che di mantenere il lavoro che ha e lo stipendio che ha. È chiaro che sono due prospettive diverse. Una volta la fiducia voleva dire fiducia in un miglioramento, adesso dire di essere fiduciosi vuol dire semplicemente che ci si aspetta che non vi sia un peggioramento. E i comportamenti poi di spesa cambiano in maniera radicale. Questo è uno dei motivi per cui in realtà, nonostante vari indicatori, poi la delusione sta forte nel vedere i dati reali. E so benissimo che molti di voi continuano a scrivermi, chiedete a noi che facciamo gli imprenditori, gli agenti di commercio, gli artigiani, e vediamo una situazione tutt'altro che in recupero. Ma dicevo, il ministro dell'economia è intervenuto sia sul taglio cuneo fiscale sia sulla crescita debole e sui ritardi di questa ripresa. Ha ammesso il ministro Padoan che i dati macroeconomici indicano un ritardo del ritorno alla crescita, questo comporta margini più stretti per il governo. Parleremo di questo, ma anche di una buona notizia in apertura, perché oggi c'è stata la firma di un accordo tra Confindustria, intesa come Confindustria dei piccoli imprenditori, quindi soprattutto il presidente dei piccoli industriali di Confindustria Baban. Era presente anche il presidente Confindustria Squinzi, con il gruppo Intesa San Paolo, per mettere a disposizione, speriamo veramente che sia, diciamo, un piano definitivo, a disposizione una cifra importante, sono in tutto 10 miliardi di euro per le piccole imprese. E questo, insomma, potrebbe essere, assieme a quanto ci raccontava la settimana scorsa il numero uno di Unicredit Ghizzoni, anche loro hanno un piano di maggiore attenzione, diciamo, ai prestiti e alle imprese. Potrebbero essere segnali che la situazione si sta muovendo dopo gli interventi di Draghi e gli interventi anche, devo dire, del Premier Renzi, insomma, che i grandi gruppi bancari stanno mostrando più attenzione per i prestiti alle piccole e medie imprese. Ancora, sempre sui temi, dacci oggi la nostra L'Italia Quotidiana. I sindacati sono spaccati, da un lato sul contratto nazionale del trasporto aereo, che non c'entra in maniera diretta con la vicenda dell'Italia, è il contratto di tutti quelli che lavorano nel settore, quindi anche chi sta a Meridiana, chi lavora in altre compagnie, perché in questo caso la UIL a essere contraria al testo, mentre per quello che riguarda la vicenda dell'Italia in senso stretto, lì le posizioni restano molto distanti, ma da quello che capiamo la posizione della CGIL resta molto distante. Le condizioni per chiudere ci sono, l'ho detto questa mattina il ministro Poletti, e se la situazione andrà avanti così si chiuderà senza la CGIL. Poi, come sempre, anche la borsa. Perché lo dico? Perché oggi Milano sta ritracciando, come dicono in gergo, ossia cala più di altre borse. Ieri la crescita è stata molto forte, -1,70%, l'altro ieri -1,70%, Milano -0,70% Francoforte, -0,80% Parigi, -0,35% Londra, -0,20% l'America. Telecom perde il 3,80, ne parleremo ampiamente, la Popolare Emilia Romagna -3,12, Mediobanca -3, come il Banco Popolare, il Monte dei Paschi -2,70, Ubibanca -2,60, come la Pop Milano, Intesa -2,5, come Unicredit, Enel -2,40, come Mediaset. Anche il lusso oggi soffre, -2,30 Ferragamo e Tod's. Poi Generali perde l'1,60 come Tenaris. Va bene Jux +4,70 e va bene Fiat +1,70. Fiat sarà un altro degli approfondimenti di questa puntata per due motivi. Uno fattuale, reale: i dati sulle immatricolazioni usciti oggi sono buoni per quello che riguarda la Fiat 500, e in Europa Fiat fa meglio del mercato, e noi siamo sempre contenti quando Fiat fa meglio del mercato. Questo per evitare qualunque interpretazione. E critichiamo Fiat quando ci sembra che le indicazioni che arrivano da Marchionne cambino in continuazione e diciamo non siano univoche, ma insomma Fiat ha fatto più 7% in Europa come immatricolazioni, la quota è salita dal 5,9% al 6%, perché grazie anche e soprattutto a Fiat 500. Fiat 500 è risultata l'auto più venduta in Europa, i dati appunto di giugno, più 22%, nel segmento A, chiaramente nel segmento A, a seguita poi dalla Panda, e continua anche la crescita della Jeep. Di questo parleremo, ma parleremo anche di un po' di maretta che si è creata, maretta insomma, indiscrezioni varie. Insomma, da un lato la stampa tedesca oggi citava la possibilità che Volkswagen stesse esplorando, stesse insomma, guardando alla possibilità di acquisire anche in maniera parziale quote di Fiat Chrysler, e lo ha scritto il periodico tedesco Magazine Online, Magager Magazine Online, citando trattative tra Ferdinand Piech, che è il principale azionista di Volkswagen, e le famiglie Elkann e Agnelli. Tra l'altro nel passato più volte Volkswagen mostrò interesse per i marchi Alfa e Ferrari. Prima la Volkswagen ha detto che non voleva commentare le voci, e già questa era sembrata una cosa abbastanza ambigua. Poi in realtà è uscito un comunicato del Lingotto che ha detto Fiat non ha intrattenuto discussioni con Volkswagen in merito a una possibile fusione, e poi anche Xor ha precisato la stessa cosa, e poi anche la stessa Volkswagen ha detto non ci sono trattative in corso. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Sempre dall'economia internazionale partiamo. Morgan Stanley, e sono settimane in cui le grandi banche d'affari americane stanno pubblicando i bilanci del secondo trimestre. Vola l'utile per Morgan Stanley a 1.940 milioni di dollari. La costruzione di nuove case in America invece è andata sotto alle attese, e ripeto, sono mesi in cui i dati americani danno un'idea che gli americani chiamano di stop and go, di battuta d'arresto e poi dato positivo, poi nuova battuta d'arresto. Non sono dati univoci nella loro diciamo direzionalità. Infatti la costruzione di nuove case negli Stati Uniti ha avuto una battuta d'arresto a giugno -9%, un dato inferiore alle attese di tutti gli analisti. I sussidi di disoccupazione invece sono calati più delle attese, quindi una buona notizia. Ma la brutta notizia riguarda, e non solo per gli Stati Uniti, riguarda la decisione presa da Microsoft. Lo dico perché è sempre drammatico quando un grande gruppo taglia posti di lavoro. Però voglio dire, Microsoft sta tagliando il 14%, cioè su 100 dipendenti 14 vanno a casa, per un totale di 18.000 posti di lavoro, la più grande ondata di tagli mai operata da Microsoft nella sua storia. Il titolo, ovviamente, la borsa, in questi casi per definizione è cinica e guadagna, perché nel momento in cui tu tagli si presume che tu aumenti i tuoi margini e la borsa ti premia. ma Bruxelles ha convocato i rappresentanti di Microsoft, vuole avere più informazioni, sta valutando sostegno ai lavoratori e poi ha chiesto che la ristrutturazione aziendale di Microsoft venga fatta ascoltando anche le parti sociali, quindi i sindacati. Però dico, da questo punto di vista noi stiamo ragionando giustamente del problema all'Italia, in cui su 22.000 dipendenti ce ne sarebbero 2.002 che poi non sono 2.002, sono di meno, 1.005 in esubero, di un'azienda che non riesce altrimenti a sopravvivere, e in America in un gruppo ben più sano come Microsoft vanno a tagliare il 14% della forza lavoro, 18.000 posti in meno. Una notizia, visto che nei giorni scorsi parlavamo anche della RAI, molti messaggi mi sono arrivati sulla proposta che il canone, io ho solo detto che è giusto, può essere giusto pagare il canone per il servizio pubblico, a patto che quello che io pago vada veramente nel servizio pubblico, e quindi o mi mettete un bollino e mi dite questo è pagato col tuo canone, perché è un'attività, una programmazione che altrimenti non avrebbe trovato risorse, o se no che il canone vada a pagare programmi di intrattenimento che fanno anche le reti private, non ho mai capito il perché. Oppure decidiamo che tutti paghiamo il canone, ma il servizio pubblico viene distribuito anche ai soggetti privati che fanno servizio pubblico e quindi che rendono un servizio pubblico, e decidiamo di mettere bollino alla 7, a Mediaset, a Sky, per le radio anche a Radio 24, se abbiamo qualche programma che oggettivamente può essere qualificato come servizio pubblico. Ma detto ciò, è interessante notare quello che ha fatto la BBC, che ha annunciato oggi il taglio di 450 dipendenti che lavorano nel dipartimento news. Deve ridurre i costi di 1 miliardo di euro. No, lo dico perché in Rai è successo di tutto quando Renzi ha chiesto un taglio di 150 milioni di euro. E posso capire, ma la BBC, che è messa meglio della Rai, sta tagliando costi per 800 milioni di sterline, 1 miliardo di euro. Il 2010 è stato congelato il prezzo del canone in Gran Bretagna, e quindi non aumenteranno gli introiti del canone per la BBC, e gli inglesi, che sono persone serie, cosa fanno in questi casi? Tagliano i costi dell'azienda. È chiaro che i sindacati non sono contenti neanche in Gran Bretagna, no? Le trade unions non è che festeggino, però sto solo dicendo che nel momento in cui tu congeli il canone in Gran Bretagna, la BBC vede non crescere più gli introiti, prende e fa un piano di riduzione dei costi per 1 miliardo di euro, 1 miliardo di euro. Sulla trattativa europea mi sembra che si stia ingarbugliando tutto, anche perché oggi numerose dichiarazioni degli esponenti dei popolari europei, tra l'altro anche Gozzi ai nostri microfoni, ma poi il consulente della Merkel che si chiama Brok, tutti dicono aveva ottime possibilità Enrico Letta, ma Renzi non l'ha proposto e quindi la questione non si è posta. Era ampiamente noto che se Renzi avesse proposto Letta, sul nome di Letta c'era un'ampia convergenza, e lo stesso Sandro Gozzi ai nostri microfoni ha detto non è mai uscito, il sottosegretario del Presidente del Consiglio, non è mai uscita l'ipotesi di Enrico Letta. A questo punto lo stallo sul nome della Mogherini resta, nel senso che c'è un nuovo rinvio al vertice del 30 agosto. Sì, so già che poi le polemiche politiche saranno incentrate su cercare di capire perché Renzi abbia insistito sulla Mogherini, dove evidentemente questo consenso non c'era, non abbia preferito andare su un nome come quello di Letta oppure su altri commissari. Noi personalmente avevamo detto che per l'Italia era fondamentale avere il commercio con l'estero per la tutela del made in, tema delicatissimo. O in seconda battuta abbiamo fatto un endorsement pubblico per De Castro all'agricoltura, se non si riusciva a avere commercio con l'estero, che ripeto, per un paese esportatore che deve tutelare i propri marchi, che è sommerso dal falso italiano in giro per il mondo, da tutto il tema del made in con i paesi del nord che non vogliono il made in perché loro sostanzialmente fanno fare tutta la produzione manifatturiera fuori dall'Europa e poi la portano a casa, noi che invece abbiamo una manifattura seria ancora e di qualità dovremmo tutelare questa, forse puntare al commercio con l'estero era per l'Italia la cosa migliore. Ripeto, in seconda battuta l'agricoltura, si è scelto l'opzione del ministro degli esteri dell'Europa, che secondo molti osservatori è però a poco peso, ma il problema è che adesso si è arrivati a uno stallo sul nome della Mogherini. Detto ciò, andiamo sui temi e torniamo sui temi di economia, perché sono usciti i dati sull'inflazione europea. Si conferma ferma allo 0,5% nel mese di giugno, quindi ben al di sotto dell'inflazione ottimale secondo la Banca Centrale Europea, tra il 2 e il 3%, e vicinissima alla soglia della deflazione. Anche perché, diciamola tutta, se i prezzi salgono dello 0,5% vuol dire che ci sarà qualcuno che sale dell'1 e qualcuno che cala dello 0,5, o che sta a 0. Ebbene, in Italia è più bassa, è allo 0,2%, siamo già in deflazione, cioè prezzi in calo in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Ungheria e Slovacchia. Ancora per quello che riguarda le notizie italiane, abbiamo già detto delle immatricolazioni auto. Due dati, adesso passiamo invece all'accordo annunciato oggi con Intesa San Paolo e la piccola industria di Confindustria, i 10 miliardi a cui facevo riferimento. Oggi l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha registrato una continua flessione dei prestiti, anche se cala il ritmo della flessione. Dicono le banche, per nome dell'ABI, lo dice il vice direttore generale Gianfranco Torriero, che il motivo, che erano in audizione alla Camera, il motivo vero sono la debole domanda di prestito da parte delle imprese. I finanziamenti comunque imprese e famiglie hanno avuto un calo medio del 2,4%. Certo, il picco negativo si raggiunse a novembre del 2013, quando calarono del 4,5%. Però, qualche buona notizia sta arrivando, perché da quello che si capisce i tre principali gruppi bancari italiani hanno già prenotato, almeno alla Banca Centrale Europea, almeno 34 miliardi di euro di finanziamenti mirati alle imprese. Ricorderete l'iniziativa di Mario Draghi, che ha detto: adesso metto a disposizione in tutto 400 miliardi a un tasso agevolato per le banche, però sono obbligate a darle alle imprese e alle famiglie, non per i mutui, altrimenti quando me li ridanno dovranno pagare un alto interesse, chiamiamola penale, per farci capire, su questo. Ebbene, le tre banche italiane, Monte dei Paschi, Unicredit e Intesa San Paolo, avrebbero già prenotato circa 34 miliardi di finanziamenti. Unicredit potrebbe chiedere 14-15 miliardi, in Intesa San Paolo 13 miliardi, in Monte dei Paschi fino a 6 miliardi. I TLTRO, dove T sta per targeted, vuol dire prestiti mirati alle imprese, cioè li possono avere questi soldi se li prestano alle imprese, avranno scadenza a 4 anni e appunto sono vincolati alle imprese e alle famiglie senza mutui. Lo ha confermato Carlo Messina, il numero uno di Intesa San Paolo, che Intesa San Paolo chiederà 13 miliardi alla Banca Centrale Europea, e lo ha confermato appunto presentando l'accordo con la piccola industria di Confindustria a cui facevo riferimento, per mettere a disposizione delle piccole e medie imprese un plafond di finanziamenti pari a 10 miliardi, come ha raccontato alla nostra in un passaggio, in realtà, nella presentazione, era presente la nostra Valentina Fornetto. Sentiamo la voce di Messina. Delle aziende italiane alle condizioni favorevoli che deriveranno da questo supporto finanziario. Quello che vediamo come banca e nella movimentazione dei nostri conti, lei sa che noi abbiamo 370 miliardi di depositi da parte della clientela e oltre 400 miliardi di risparmio gestito e amministrato, quindi la dimensione di quello che gestiamo per conto delle famiglie italiane è pari quasi al 50% del PIL, noi vediamo sicuramente un recupero da parte delle famiglie e un'attitudine al ritorno ai consumi. Quanto questo effetto possa tradursi in un riduciamo soltanto il segno negativo o lo passiamo positivo, questo lo vedremo nel corso dei prossimi trimestri. We'll be right back. Allora, e anche su questo il presidente Confindustria Squinzi ha detto le misure sono di rilievo, quelle prese da Intesa San Paolo, bene i prestiti alle banche per le piccole e medie imprese. Volete sapere di Alitalia? Non confondiamo il contratto nazionale del rinnovo dei piloti e dei dipendenti del trasporto aereo con Alitalia. Comunque, secondo Bonanni, leader della CISL, sul contratto nazionale per trasporto aereo si è trovata una convergenza e si potrebbe superare lo stallo. Si dovrebbe superare lo stallo, e cioè che sono trovate le convergenze importanti per fare il contratto. Quindi ci saranno anche posizioni un po' differenziate, però la forza per determinare un contratto nuovo e quindi la stipula di un contratto c'è. L'intesa si farà oggi, definitiva, oggi. La pensa diversamente il leader della UIL Angeletti, che dice no, attenzione, su questo testo non c'è intesa. Non credo che ci siano le condizioni perché il rush finale abbia un esito positivo, nel senso che non siamo d'accordo sul contratto. Secondo noi il testo del contratto viola molti diritti delle persone che lavorano in Italia. Tutto ciò che bisognava fare per fare in modo che il matrimonio o l'intesa con Etihad avesse il via libera e il successo, noi lo abbiamo fatto firmando la cosa più complicata e assumendosi la responsabilità sulla vicenda del numero dei dipendenti. Il contratto è una questione che regolerà i diritti delle persone che lavorano nella futura Alitalia, e i testi che ci sono stati presentati, se no si sarebbe risolto già questa notte, non sono per noi testi in grado di difendere le persone. Quindi presumo che se nulla cambia noi non firmeremo una cosa di questo genere. Parleremo dopo di Alitalia, invece, per quello che riguarda anche le dichiarazioni di Messina, del numero uno di Carlo Messina, numero di Intesa San Paolo, su quando si arriverà all'utile, quando le banche potranno definitivamente uscire da Alitalia nel 2017 secondo il piano industriale. Nostro sogno su Pompei, sulla zona archeologica, diciamo, della sovrintendenza archeologica di Pompei. Due risposte però rapidissime agli ascoltatori. Attenzione, non si può però ragionare, sapete che con le banche non siamo mai teneri, però dire che Intesa San Paolo prende 13 miliardi e ne mette a disposizione 10, attenzione, ha fatto un affare. No, magari gli altri 3 servono per le famiglie, prestiti alle famiglie. Anche perché quei prestiti che le banche italiane, europee chiederanno, quei soldi che chiederanno con prestiti a lungo termine a condizioni vantaggiose alla BCE, possono essere utilizzati solo per prestiti, per cui non possono fare i furbi, come scrive qualcuno, perché Draghi su questo è stato nettissimo, altrimenti me li ridai pagando un interesse altissimo, non ti conviene più chiedere quei soldi in prestito, per cui un po' di fiducia almeno su questo. I tassi alle imprese non lo so, vedo che ancora altri parlano di regali alle banche. No, attenzione, l'operazione di Draghi non è un regalo alle banche, è mettere a disposizione liquidità alle banche a patto che la riutilizzino nel sistema. L'unica critica che si può fare è che poteva essere fatta prima, ma c'era il problema dei bilanci bancari negli anni scorsi, per cui insomma Adesso non mi fate diventare il paladino delle banche improvvisamente italiane, ma questa volta le critiche non c'entrano, sono improprie, fidatevi. Andiamo su Pompei. Perché? Perché continuiamo a battere, l'abbiamo fatto un mese fa con gli stati generali della cultura del Sole 24 Ore, sulla valorizzazione economica del nostro patrimonio artistico e culturale, il nostro oro, il nostro petrolio, che però va estratto, va trovato, se no resta sotto e non ce ne facciamo niente. Va bene, allora. Oggi c'era il commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn a Pompei con il ministro Dario Franceschini. Hanno firmato un piano di azione congiunto Unione Europea-Governo per accedere ai lavori del grande progetto Pompei. Hahn però ha sottolineato che fino adesso solo il 25% dei fondi europei sono stati utilizzati e i lavori per Pompei dovranno essere completati inderogabilmente entro il 2015. Auguri. Franceschini, giustamente a mio avviso, dice la sfida di Pompei è una sfida per il paese, anche perché al di là del valore artistico, del possibile potenziale valore economico, c'è anche una figura che andiamo a fare in tutta Europa, poi è inutile chiedere maggiore flessibilità sugli investimenti se non sappiamo usare i soldi che abbiamo. Ascoltiamo Franceschini al microfono della nostra Raffaella Calandra. Ci sono, e non è una novità, molti anni di ritardi. Stiamo lavorando molto intensamente. Oggi la giornata è una giornata assolutamente positiva perché abbiamo firmato con il sottosegretario Del Rio e il commissario Hahn un action plan che prevede un piano d'azione che prevede che rispetteremo i tempi, manterremo gli impegni sui 105 milioni entro il 2015 e quindi, come dire, è un impegno che è importante non solo per i fondi europei, è importante anche per il nostro paese. E ha firmato la giornata di oggi era esattamente firmare il piano d'azione, questo è quello che abbiamo fatto e l'impegno che manterremo. Quindi non c'è il rischio che questi finanziamenti vengano persi, ma soprattutto, come lei diceva, è importante per il paese, per l'Italia, quindi per assicurare che una Pompei più sicura e meno fragile. Abbiamo concentrato molte iniziative, ci sono alcune norme introdotte nel decreto cultura che consentono di accelerare i lavori, abbiamo mandato persone nuove, sia archeologi che persone di custodia, le imprese stanno lavorando, ripeto, partiamo da una situazione di ritardo, ma stiamo assolutamente recuperando e oggi abbiamo preso un impegno condiviso dal commissario Hahn sul cronoprogramma da qui al 2015. E noi tifiamo tutti perché abbia ragione il ministro Franceschini, se arrivi a questo. Peccato che però nel frattempo succede che sabato sera scorso nella villa di Poppea, nell'antica Oplonti, comune di Torre Annunziata, fa parte della sovrintendenza archeologica di Pompei, si svolge una festa privata. Benissimo, nel senso che il party era organizzato da un'azienda britannica che ha affittato la villa, appartenuta alla mitica Poppea, quella che faceva il bagno nel latte, diciamo, non più morigerata di alcuni casi che abbiamo visto in alcuni anni fa, ma soprattutto una villa che ha 2000 anni. Ora tu dici, quanto pagherà un gruppo britannico che vuole fare una festa? È giusto, e io sono dell'idea che si debba valorizzare il patrimonio anche così, ma massimo rispetto per le strutture, ma come avviene nel resto del mondo, a Londra affittano i musei, affittano i siti, cioè non c'è nessun problema. Quanto abbiamo fatto pagare sta villa a una festa privata? Adesso facciamo un bel concorso. Secondo voi, una villa che ha 2000 anni, che è della moglie di Nerone, nell'antica Oplonti, dove arrivano 70 VIP con catering, allestimenti, luci suffuse, figuranti travestiti da antichi schiavi, mancavano solo i legionari con la faccia, ma lasciamo stare, va tutto bene. Va meno bene aver trovato sigarette buttate per terra, signore che hanno camminato sui mosaici conservati intatti in 2000 anni di storia col tacco 12, tutto bene, fuori dai cancelli della protesta contro la sovrintendenza da parte dei sindacati, però la sovrintendenza ha dato in concessione in base a quello che prevede la legge nazionale sull'affido di siti storici e museali. A me, io trovo assolutamente fuori luogo il comunicato di Sinistra Ecologia e Libertà che dice una festa per soli ricchi, a ciccio, chiaro che una festa così se la permette un gruppo britannico che vuole fare marketing, vuole portare i suoi migliori clienti, vuole portare i suoi migliori manager, lo fanno in tutto il mondo. Io voglio sapere però, secondo voi, quanto ha incassato l'Italia, lo Stato italiano, per affittare una villa di 2000 anni che apparteneva alla moglie di Nerone. Mandate la cifra al 349-238-6666 e prima del 18 vi darò la risposta. A chi? No, cioè, che il concorso è valido per chi non ha letto la notizia, dai. No, vabbè, scrive uno ascoltatore, abbiamo pagato noi anziché loro, adesso non si butti giù così, veramente, però 30.000, dice uno, 50.000 un altro, va bene. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa come ha chiuso? Ha chiuso in calo, meno 2,20%, si sta rimangiando tutto il rialzo d'inizio settimana. Meno 1,20 Parigi, meno 1 Francoforte, meno 0,75 Londra, meno 0,33 l'America. Miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Yux, più 4%, e poi Fiat, di cui parleremo, più 1,40. Peggior titolo Telecom Italia, meno 4%, e poi tutte le banche. Alcuni ci vanno vicini, altri proprio no. Comunque, arriveremo alla risposta. Dicevo, la borsa, meno 2,21%, negative tutte le banche. Pop Milano, meno 4, Banco Popolare, meno 3,70, Mediobanca, meno 3,5, Ubibanca, meno 3,30, Pop Emilia Romagna, meno 3,30, come Monte dei Paschi, Unicredit, e infine il 3% lo cede Enel, il 2,90, Intesa San Paolo. Più 4%, Fiat più 1,40 e Buzzi Unicem più 0,30 sono i tre migliori titoli del listino. Mediobanca, tra l'altro, oggi ha approvato le modifiche al patto di sindacato, con l'abolizione dei soci in tre gruppi, ricordate A, B e C, sono cose un po' per addetti ai lavori. Bolloré, il finanziere francese, è salito al 7,1% dal 6,46% che possedeva. E quindi la quota sindacata, e quindi il patto di sindacato, è al 31,3%. Il nuovo patto di Mediobanca prevede che ci siano due vicepresidenti, il primo designato da Unicredit, il secondo dagli altri soci su proposta del gruppo Bolloré. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Le banche, rapido, ma soprattutto Telecom Italia, meno 3,5%, e qui c'è notizia, c'è l'annuncio di Telefonica. Sì, Telefonica ieri nel tardo pomeriggio ha annunciato un convertito da 750 milioni, sostanzialmente è una struttura che le permetterà nel giro di 3 anni di diluirsi nel capitale di Telecom dal 14,8% all'incirca all'8%. Chiaramente questa è una notizia che ha penalizzato il titolo, che infatti oggi ha subito perso già dall'apertura e ha chiuso a meno 4,1%. Ricordiamo che la decisione di Telefonica non è comunque dettata da ragionamenti di carattere industriale, ma da quella che è una richiesta dell'antitrust brasiliano, che a seguito del suo rafforzamento proprio in Telecom aveva chiesto un allentamento appunto dei legami tra Telecom e Telefonica. Per quanto riguarda le banche, forti ribassi per tutti, ieri erano salite molto e oggi, diciamo, quando Piazza Affari scende, le vendite si concentrano soprattutto sugli istituti di credito. Eh sì, ancora, dicevo, altri titoli oltre le banche le ho già ricordate io. Sul fronte borsistico oggi, oltre a Telecom, di Fiat parliamo tra un attimo, per cui comunque bene la Fiat sul dato sulle immatricolazioni, più 1,40%. Yux. Eh sì, Yux è un titolo che è stato molto penalizzato nel 2014, tanto che c'è qualcuno che sul mercato inizia a ipotizzare che sia conveniente, guardando anche il rapporto tra il prezzo e gli utili attesi per fine anno. Si scopre infatti che è sottovalutato del 28% se si guarda tutto il paniere del lusso e del 26% rispetto alla sua concorrente inglese Asos, di qui che oggi sono arrivati molti acquisti da parte degli operatori. Ancora tra i titoli, oltre Yux, Buzzi Unicem poi ha un po' ritracciato, però andava bene oggi, vista la giornata soprattutto. Sì, qui c'era, vista la giornata, un ottimo risultato, quello di Buzzi, fa più 0,3%, e, diciamo che c'era uno studio di una banca svizzera, UBS, che sottolineava come fattori di ottimismo per Buzzi la crescita in USA e in altri, diciamo, in Germania e in Messico. Bene, invece Cementir Holding più 8%, PMS più 9,90%, Banco Desio più 6,20% e Jux che tu citavi, Moleskine più 3,26%, Frontopposto Hyreal meno 10%, Seat meno 6%, poi Telecom appunto meno 4,13% dopo l'operazione di Telefonica. Volete sapere di altri titoli? No, guardate, le variazioni principali ve le abbiamo date, dicevo del lusso, quello sì, oggi debole, meno 2,30% per esempio Tod's, e Luxottica meno 1,81%, mi sono perso Ferragamo, ma eccolo qua, meno 2,43%. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie a voi, buonasera. Allora, adesso parliamo di Fiat, lo facciamo con Andrea Malan. Andrea Malan, mi senti? Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Secondo te quanto costa affittare la villa di Poppea per una festa privata? Villa della moglie dell'imperatore romano, 2000 anni di storia, che non è proprio un villino a schiera, una casetta a schiera, me lo chiede qualcuno, fa, non conosco la villa. Amore, ma dove stava Poppea, secondo te? Non era proprio un bilocale. Quanto puoi pagare? Quanto secondo te ti potrebbero chiedere per fare una festa alla villa di Poppea? Non lo so, diciamo che non è nei miei programmi. Vabbè, questo non è così rilevante. Vabbè, però siccome ho indetto un concorso, vorrei sciogliere il dubbio in chi non avesse letto i giornali oggi. Abbiamo chiesto 5.000 euro. Certo, qualcuno mi dice, avendo chiesto 8.000 euro avendo chiesto ai Rolling Stone 8.000 euro per il Circo Massimo, ci stanno 5.000 euro. Sì, ma non è che mi sento meglio così. Oh ragazzi, ma 5.000 euro è il costo, chiedete a qualunque società in Italia, per affittare un teatro, un centro congressi, una banalissima location, come si chiamano in gergo, dove fai una convention, ok, così oggi andiamo con la sagra dell'inglesismo. Ma dico, ma si può chiedere 5.000 euro per una villa che ha 2.000 anni, dove le signore lasciano le sigarette, camminano sui tacchi, sui mosaici, buttano le cicche per terra, che non so neanche quanto costerà di pulizia? 5.000 euro? Ma non gli pareva vero a sto gruppo inglese? Vai a vedere quanto costa prendersi un museo del 1800 com'è il Natural History Science Museum a Londra e affittarlo per una sera. Vediamo quanto ti chiedono. Sì, 5.000 all'ora. Però poi la cultura, l'archeologia, l'arte è il nostro tesoro, il nostro petrolio, sì, è che poi lo regaliamo. Allora, Andrea Malan, la Volkswagen non vuole comprarsi la Fiat. Sì, nessuno vuole comprare e nessuno vuole vendere, quindi diciamo la notizia non c'è, anche se un certo, come dire, arrosto non c'è, per dirla con una fonte, ma un po' di fumo rimane, quindi la cosa non è del tutto assurda. Noi sappiamo che Volkswagen e Fiat si sono parlate per anni sull'Alfa Romeo, sappiamo che Volkswagen ha sempre le mire espansionistiche, un'acquisizione come quella di cui si è scritto oggi sui giornali tedeschi, che sembra un atto di megalomania da parte di Piëch, il padre padrone della Volkswagen, potrebbe avere una sua logica strategica. Invece sappiamo che Volkswagen è in grossa difficoltà negli Stati Uniti e Chrysler gli toglierebbe le castagne dal fuoco. Sappiamo che nelle piccole auto, soprattutto quelle a basso costo, per le quali aveva comprato la Suzuki, con la quale invece sta rompendo, ha ancora bisogno di esperienza, di capacità. Quindi in realtà la Fiat gli risolverebbe parecchi problemi. Ovviamente in questi casi qua il problema è sempre quello di far funzionare un'operazione, quindi paradossalmente, per quanto difficile sia mettersi d'accordo, il vero problema arriverebbe dopo, e sappiamo che le operazioni nate come presentate come l'operazione del secolo poi in realtà ne funzionano alla fine molto poche. Sì, e quindi però è interessante che si sia, devo dire che tutto l'ha generato il periodico tedesco Magager Magazine Online, non so se si legga così, appunto dicendo che c'erano già trattative in corso tra Volkswagen e le famiglie del cane Agnelli. Invece la buona notizia, e vorrei chiudere su questo, riguarda il dato di oggi sulle immatricolazioni auto, dove con un mercato che ha fatto più 4,3%, Fiat ha fatto quasi più 7%, e se ho ben visto la 500 è la macchina più venduta, più 22% in Europa nel segmento A. Andrea? Sì, beh, Fiat nel segmento A tradizionalmente ha le due macchine più vendute, certo, cioè la Panda. 500, la Panda. La notizia, diciamo, che la 500 ha superato la Panda, che comunque, sì, dati i prezzi a cui si vende la 500, per Fiat è un'ottima notizia. Sì. Un po' meno, diciamo, per gli operai di Pomigliano, visto che la Panda è fatta a Pomigliano, mentre la 500 è fatta in Polonia. Sì, è vero, diciamo, a noi interessa le sorti del gruppo Fiat, poi è chiaro che ha stabilimenti anche in Polonia, in Serbia, in altri luoghi, però continua anche la crescita della Jeep. Un tuo ultimo commento, abbiamo un minuto scarsissimo, sul dato complessivo invece della Fiat, cioè che cresce più della media del mercato. Fiat è andata bene in alcuni mercati, è andata particolarmente bene in alcuni mercati fuori dall'Italia. Sappiamo che in Italia invece da tempo sta comunque tenendo le posizioni, si mantiene un po', non preme l'acceleratore come una volta. In queste condizioni di mercato europeo è sicuramente un dato positivo. Diciamo che le prospettive per il secondo semestre, non solo per Fiat ma per tutti in Europa, non sono semplicissime, anche perché ricordiamo che, come ha suggerito qualche analista, sì, il confronto adesso con la seconda metà del 2013 diventa più difficile, perché i dati erano un po' migliori, quindi continuare a guadagnare come prima, sì, diventa più difficile. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Adesso mi stanno arrivando decine di messaggi su quanto costa affittare una banalissima, addirittura c'è chi mi scrive da Lugano che con 5.000 euro non affitti neanche un bar. Ma vuoi mettere un bar a Lugano piuttosto che la villa di Poppea? Io ho detto ex moglie di Nerone, giustamente qualcuno mi ha scritto, ma perché, si sono separati? No, la moglie di Nerone. Ma poi qualcuno dice, ma lei sta polemizzando. No, guardate che immaginiamo che un prezzo corretto, visto quello che è il mercato in giro, che con 5.000 euro te prendi forse un ristorante in affitto, una normalissima sala convegni, immaginiamo che invece che 5.000 l'avessero affittata a 50.000, visto che era un gruppo inglese che portava 70 top clients a cena e a camminare appunto sui mosaici della villa di Poppea. Ma insomma, io sarei invece per affittarla più possibile a quelle cifre. Oh, affitti 20 volte in un anno per 20 matrimoni e 20 a 50.000, hai fatto 1.000.000, non è niente, ma insomma magari aiuta, no? Per la villa di Poppea e in generale, visto che appartiene alla sovrintendenza ai beni archeologici di Pompei. Vabbè, ma siamo noi a essere polemici. Allora, il ministro Padoan sul taglio al cuneo fiscale, l'ho detto oggi alla Camera, ha detto attenzione che il taglio al cuneo fiscale sarà reso permanente con la legge di stabilità. La raccomandazione numero 2 indica di spostare l'onere fiscale da fattori produttivi verso il consumo e verso la proprietà immobiliare, verso l'ambiente e verso le rendite finanziarie. Inoltre insiste nell'accelerare il processo della legge delega. La strategia del Governo include una revisione della fiscalità con misure di riduzione delle imposte gravanti sulle famiglie e sulle imprese. Va in questo senso l'ulteriore taglio, fin da maggio, del cuneo fiscale, che sarà reso permanente con la legge di stabilità, e la riduzione dell'IRAP, che, spostando la tassazione sulle rendite finanziarie, come suggerito dalla Commissione, agevola anche le imprese. E su questo è intervenuto anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che a margine della presentazione dell'accordo che vi abbiamo già raccontato tra Confindustria delle piccole imprese con Intesa San Paolo, 10 miliardi di euro di plafond a disposizione delle piccole imprese, ha detto Squinzi: Confindustria dal gennaio 2013 continua ad auspicare che ci sia un intervento forte sul cuneo fiscale. che è benzina per il motore delle imprese. Come Confindustria è da gennaio del 2013 continuiamo ad auspicare che noi pensiamo e auspichiamo che ci sia un intervento forte sul cuneo fiscale del lavoro, perché è la boccata d'ossigeno, la benzina nel motore delle imprese più importante in questo momento. Poi sempre il ministro Padoan sulla crescita, visto che ieri abbiamo dedicato tutto un approfondimento alle continue revisioni a ribasso sulla crescita economica, ripeto, molto interessante la spiegazione anche sul perché c'erano state attese di una crescita più forte guardando gli indicatori di fiducia dei consumatori e delle imprese. Ripeto, perché, come ci hanno spiegato bene ieri, una volta dire che aumentava la fiducia significava immaginare che migliorava la tua situazione economica e quindi magari aumentava il tuo stipendio o tuo figlio veniva assunto, adesso significa semplicemente immaginare che non peggiori la tua situazione, quindi tu mantieni il tuo stipendio e non vieni licenziato. E chiaramente fotografa due condizioni diverse, perché nel primo caso ci si poteva immaginare anche un aumento dei consumi, nel secondo vuol dire che mantieni i consumi variati, però sei fiducioso che non perderai il posto di lavoro. Ah, è un po' diverso. E infatti il vero assente in questa ripresa economica di nuovo sono i consumi interni, visto che il dato sull'export di ieri era più che positivo per le imprese italiane. Anche Padoan ammette che la crescita è ancora debole e incerta e che ci sono ritardi sulla ripresa economica, che vorrà dire che il governo ha margini più stretti. Siamo in un contesto di crescita ancora debole e incerta. La disoccupazione rimane elevata e si conta in Europa nell'ordine di decine di milioni, soprattutto fra i giovani. È un problema dell'Italia, ma è anche un problema dell'Europa. Anche per questa ragione, la presidenza italiana del semestre appena iniziato ha posto al centro della priorità dell'Europa il sostegno della crescita e dell'occupazione. Si tratta di una priorità che è stata fortemente condivisa e ribadita di recente ed è stata accolta anche alla riunione del Comitato Ecofin dell'8 luglio scorso. I dati macroeconomici più recenti, se confermati, indicano un ritardo nel meccanismo di ritorno alla crescita sostenuta in Europa e altrove. Ciò è vero anche per il nostro Paese. I margini per l'azione del Governo si faranno, in questo caso, più stretti. Ma non per questo si indebolisce la prospettiva di medio termine, indispensabile per quel salto di qualità di cui il Paese ha bisogno tramite una decisa azione di riforma. Questa prospettiva è anche necessaria per il mantenimento dell'equilibrio difficile tra consolidamento dei conti pubblici e sostegno alla crescita e all'occupazione, e che il Governo è determinato a preservare. Ancora il ministro Padoan, attenzione sull'aggiustamento fiscale che ci chiede l'Europa, e quindi il debito. L'Unione Europea non considera le privatizzazioni nel calcolare, diciamo, l'andamento del nostro debito. Lo scenario della Commissione non considera inoltre interamente le misure di consolidamento introdotte con la precedente legge di stabilità e sconta le maggiori spese che dovranno essere rifinanziate con la legge di stabilità 2015, prospettando quindi un livello tendenziale di indebolimento netto per il 2015 lievemente peggiore rispetto a quello indicato dal DEF 2014. In sostanza, per quanto riguarda le valutazioni sull'aggiustamento fiscale non sufficiente a garantire il rispetto della regola del debito, va considerato che le stime della Commissione non tengono conto delle minori spese pianificate, ma non ancora specificate nel dettaglio, e dei maggiori introiti come quelli attesi dalle privatizzazioni in via di programmazione. Speriamo che le prossime privatizzazioni vadano bene. Non è stato un debutto entusiasmante per Fincantieri, Sisel ha ritirato l'offerta. Ancora, per quello che riguarda i temi, sento il ritorno audio leggermente, chiedo alla regia, grazie. Dicevo, per quello che riguarda i temi toccati dal ministro Padoan, poi vi torneremo. Vedo molti messaggi, allora, alcuni mi stanno confermando che un bagno a Forte dei Marmi affittato per una sera costa 4.000 euro per un matrimonio, la villa di Poppea 5.000 euro. C'è chi mi continua a scrivere: lei continua a parlare di stupidaggini, se ne rende conto, sta per succedere un casino perché hanno battuto un aereo in Ucraina. Allora, ho capito, il programma si chiama Focus Economia, i nostri GR e tanti altri programmi vi raccontano il resto della cronaca, l'attualità in questo caso di politica estera, dopodiché dell'Ucraina parliamo anche noi perché le ripercussioni di carattere economico che non sono prioritarie, ma ci sono le tensioni sull'energia, anche il calo del PIL russo con tutto ciò che significa per le nostre esportazioni. Però insomma non mi sembra una stupidaggine un paese che non riesce a valorizzare il patrimonio artistico culturale quando i privati chiedono di affittarlo dal circo massimo 8.000 euro e la villa di Poppea per una festa di un grande gruppo britannico con 70 super VIP invitati a 5.000 euro. Non mi sembra proprio un dettaglio, però. La vicenda Alitalia. Confesso che inizio ad avere dei problemi anch'io nel seguirla, perché da un lato c'è il contratto nazionale di settore sul settore del trasporto aereo, dall'altro c'è la vicenda Alitalia, le notizie si accavallano, le dichiarazioni dei sindacati, la UIL che non firma il contratto nazionale, però ha firmato, da quello che abbiamo capito, d'accordo sulla ristrutturazione di Alitalia, la CGIL invece fuori sulla ristrutturazione di Alitalia, ma da quello che ho capito ha firmato il contratto nazionale. Allora, con ordine, prima di tutto le dichiarazioni di questa mattina del ministro Poletti su Alitalia, non sul contratto nazionale. Ha detto: ci sono le condizioni per chiudere. CGL ha dichiarato di essere interessata e disponibile a sottoscrivere il contratto e a sottoscrivere l'accordo sulla, diciamo così, riduzione degli oneri economici, quindi il problema di CGL fa riferimento essenzialmente all'accordo riferito alla gestione degli esuberi, quindi io credo che con il consenso di tutte le altre organizzazioni e questo consenso parziale, diciamo, di CGL ci siano pienamente le condizioni per concludere l'accordo. E poi la nostra Valentina Furlanetto, che a cui dobbiamo anche l'intervista prima di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che a margine della presentazione appunto dell'accordo Confindustria Intesa San Paolo per i 10 miliardi di plafond alle piccole e medie imprese, ha raggiunto il numero uno di Intesa San Paolo Messina sulla partecipazione in Alitalia e su quando Intesa San Paolo pensa di poter uscire definitivamente da Alitalia. È mancato accordo, mi sembra che comunque la maggioranza dei sindacati ha votato a favore dell'accordo, quindi per noi questo già rappresenta un punto di positivo nello sviluppo della trattativa. Mi pare che adesso quello che è rimasto aperto è la condivisione con tutti gli altri azionisti e creditori degli altri aspetti del piano. E per quanto riguarda Intesa San Paolo, noi siamo pronti a fare la nostra parte, purché la facciano anche gli altri, e con un chiaro obiettivo di uscita al 2017, quando questa azienda tornerà inutile. Questo fa parte del nostro piano d'impresa, uscire dall'azienda in cui siamo anche in partecipazione azionaria, che non rappresentano il core business della banca, e questo è certamente il caso. Allora, vediamo se riesco a capirci di più con Massimiliano Zampini. Un ascoltatore scrive: Alitalia diventa Alitalia, nel senso, penso, giocando con la provenienza degli Emirati Arabi di provenienza, la proprietà degli Emirati Arabi di Abu Dhabi e della compagnia Etihad. Non male, Alitalia. Allora, Massimiliano Zampini, buonasera. Buonasera Sebastiano, penso che tu non sia l'unico che... No, non ci sto capendo fatica, più nulla, perché ho le dichiarazioni... capire cosa stia succedendo. Allora, alcune volte i sindacati parlano del contratto nazionale, che è in contemporanea con l'accordo su Alitalia. Provo Alitalia. A spiegartelo, vai. Ma provo a capirlo insieme a te, in realtà. È un'operazione maieutica, vai, andiamo avanti, dai. ci sono due differenti strade. Quella che è legata all'accordo sugli esuberi, che come sappiamo è stato firmato da tutti i sindacati, fuorché da CGL, e che è, diciamo così, il punto principale. Il principale richiesto da Etihad sul fronte sindacale per arrivare a un'intesa con Alitalia. Poi c'è un secondo piano, che è quello che riguarda il contratto nazionale di lavoro, cioè con quali regole normative ed economiche lavoreranno i lavoratori del settore per i prossimi 3 anni, e il piano di risparmi che era già stato messo a punto dall'amministratore delegato di Alitalia del Torchio prima del piano di Etihad, e sono risparmi che attende anche Etihad. Su questi due fronti il fronte sindacale è spaccato, cioè la CISL e la CGIL sono pronte a firmare, in questi minuti sono al Ministero per firmare l'intesa, e la UIL, che negli ultimi tempi si è molto avvicinata ai sindacati del personale navigante, invece è assolutamente contraria a questa intesa e non vuole firmarla. Questa intesa, che peraltro, ecco, perché un dato interessante è capire se a Etihad questo aspetto interessa per andare a buon fine con la trattativa. Ebbene, Etihad ha fatto trapelare pochi minuti fa che questo è parte integrante, secondo Etihad, la firma sul contratto nazionale di lavoro e anche quella sugli ulteriori risparmi previsti dal piano del Torchio, secondo Etihad sono parti integranti dell'intesa sindacale tout court per arrivare alle nozze tra le due compagnie. Allora, vediamo se ho capito anch'io. Da un lato c'è la proposta di Etihad ad Alitalia e dice appunto 2.125 esuberi, che poi sono meno, ma insomma è la ristrutturazione proposta che le banche creditrici, per quello che riguarda il loro taglio, hanno di fatto accettato. I sindacati dentro all'Italia hanno accettato, tranne la CGIL, che se non ricordo male ha più o meno il 13% della rappresentanza sindacale in Alitalia. Però allo stesso tempo si sta rinnovando il contratto nazionale della categoria, facevo l'esempio, vale anche per chi lavora in meridiana, no? Se posso usare un esempio così, e Etihad dice attenzione, quello è fondamentale per noi perché non veniamo a comprare il 49% di Alitalia se non abbiamo garanzie su quello che è il contratto nazionale per chi lavora nel settore. Per cui la CGIL dice sì al contratto nazionale, ma no al piano di Etihad su Alitalia. La UIL dice sì al piano di Etihad su Alitalia, ma no al contratto nazionale. La CISL dice sì a tutte e due. A me sembra giocare a tris, però Massimiliano. Hai perfettamente ragione, è una situazione davvero ingarbugliata, è evidente che ci sono anche, fammi dire, dei regolamenti di conti sindacali, perché ovviamente è una vicenda politicamente rilevante questa di Alitalia, e naturalmente lo strappo della CGIL sugli esuberi è uno strappo politicamente significativo, e ci sono sindacati che evidentemente, perché è chiaro che dire di sì a degli esuberi costa ad ogni sindacato, insomma. A questo non c'è dubbio. E quindi evidentemente questo è costato sul fronte sindacale. E come ti dicevo, peraltro, anche questo è un particolare non irrilevante in questa vicenda, la UIL ultimamente è molto più vicina, ma anche in termini di rappresentanza, cioè dei lavoratori iscritti alla UIL, al personale navigante. Qui c'è una spaccatura, così come ti chiudo dicendoti questa cosa, il no della CGIL sugli esuberi non è, uno lo può vedere anche come il no della CGIL sempre bastian contraria agli accordi, ma la CGIL in Alitalia è molto forte sul personale di terra e gli esuberi toccano principalmente il personale di terra, quindi c'ha anche delle sue motivazioni, diciamo così, in termini di rappresentanza. Allora sì, ma a me un po' sembra che va tutto bene, i sindacati fanno il loro ruolo, il loro compito, però stiamo un po' lucidando i pomelli del Titanic, perché questa azienda perde quasi 1 milione di euro al giorno. Insomma, stiamo parlando come se l'Italia fosse un gioiellino che decidiamo come rendere ancora più profittevole. Professor Gregory Aleggi, che insegna ed è docente di gestione delle compagnie aeree alla LUISS di Roma, buonasera. Buonasera. Le dico subito che la riavremo anche domani perché sta scadendo il nostro tempo. Mi dà solo un commento lapidario, poi domani mi fa l'analisi invece su quello che sta capitando su questa doppia vicenda in cui si intrecciano i no e i sì sindacali? Ma l'analisi di Massimiliano Zampini, che saluto, è assolutamente corretta. C'è in realtà da aggiungere poco. La cosa principale è questa: Assa Aereo, quindi l'associazione aderente a Confindustria delle imprese di trasporto aereo, oggi è ridotta alla sola Alitalia. Quindi in realtà è come dire, quasi un doppio livello di contrattazione aziendale. Quello che poi diventa problematico è appunto, una volta che c'è un contratto nazionale, che si applicherebbe o verrebbe richiesta applicazione anche agli altri. Quindi sembra un tentativo a quel livello di sistemare tutto il settore. Da questo punto di vista si capisce bene Etihad, perché ci sarebbe una certezza di regole, una parità di condizioni fra tutti gli attori italiani. Poi naturalmente se il concorrente è irlandese, fa riferimento a un altro ordinamento, certo. Non fa niente. L'altro discorso è quello di diffusi timori sulla rappresentatività. ovvero questo tentativo di blindare la situazione per i prossimi 3-4 anni, quindi per la fase, se vogliamo, più critica del rilancio. Perché il primo periodo, quello di transizione, comporta ancora tagli, no? Cioè, poi si ridiscute, ma si ridiscute sperabilmente in un momento di vacche grasse. In questo momento verrebbero blindati dei rapporti di forza che forse non sono quelli questo mi interessa molto, cioè quanto è reale la rappresentatività sindacale. Ne parliamo domani, perché immagino che arriveranno anche altre notizie. Grazie intanto al professor Gregorio Aleggi, grazie anche a Massimiliano Zampini. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.